Penso sempre a te, quando a notte torno a casa solo, penso al tuo viso tanto bello. Certo sai perché le mie notti sono insonni e tristi, mentre tu riposi senza sogni, senza amore. Ma il tempo passa e va, e una notte verrà che ripensando a me il tuo cuor mi sognerà, cara, sempre a te. Quando a notte torno a casa penso, mentre tu riposi senza sogni. Se va, e una notte verrà che ripensando a me il tuo cuor mi sognerà, cara, sempre a te. Quando a notte torno a casa penso, mentre tu riposi senza sogni.